Innanzitutto grazie alla dottoressa Trevisan che ci ospita sempre volentieri e poi porto il saluto dell'ASA, Associazione Scrittori Alto Tesini, e della LASMA. Questa sera presenteremo il terzo volume Il mare nella poesia, dove sono inseriti molti autori locali nostri che noi già da decenni portiamo avanti e cerchiamo di diffondere le opere dei nostri autori della nostra provincia, facendole conoscere fuori dalla provincia attraverso le due riviste, la LATMAG e la Gazzetta di Bolzano. Come è noto, noi siamo qui attivi da oltre 30 anni. Ormai, no? E niente, mi fa piacere questa sera presentare questo, questo volume, Il mare nella poesia, che il professor Galasso presenterà, approfondirà i contenuti del volume. Ringrazio la dottoressa Trevisan, forse aggiungendo che il nome dell'attrice è Grazia dell'Aquila, ma insomma capita a noi tutti e a me a Fortio. Ringrazio Franco Latino per ovvi motivi, per come operatore culturale, come poeta e scrittore, come editore nella fattispecie e come presentatore, spero piuttosto di riuscire a approfondire un po' quello che insomma il volume, il senso di questo volume. Ci sono due testi introduttivi, in particolare quello di Franco Maggi, che focalizza vari aspetti, e quindi naturalmente già il volume stesso ha questi elementi. Ecco, quello da cui vorrei partire è una considerazione di carattere generale, cioè abbiamo a che fare con un volume scritto prevalentemente da persone che non abitano al mare, che non hanno passato la loro vita, diciamo, sul mare o in zone marittime, marine, come vogliono dire, ci sono poi delle eccezioni nel volume, no? Dove evidentemente il rapporto col mare è stato anche un rapporto diretto, un rapporto semantico, però complessivamente direi di no. Perché allora il mare? Perché tutti diciamo, abbiamo a che fare con questo elementale, no? Con questo elemento fondamentale che è l'acqua, non solo nella tradizione greca, insomma, il hydro, l'acqua è un elemento fondamentale insieme a terra, fuoco, aria e eventualmente etere, con appunto se diamo retta a Aristotele o meno. Ecco, in realtà in tutte le tradizioni troviamo questo, perché in Oriente, nella tradizione diciamo meso-orientale o del vicino Oriente, idem è, e anche da quel poco che so, confesso, nelle culture cosiddette primitive, diciamo nelle culture dell'Africa, no? Che poi sono diverse e variegate, perché non esiste un'Africa unitaria, no? A parte la distinzione che non, insomma, tra Africa del Nord, non diremo Africa bianca, ma insomma Africa del Nord, e il resto dell'Africa, però insomma, ecco, ci sono questi l'acqua è poi essenzializzata dal mare, perché il mare ha il di più rispetto al fiume, al lago e allo ruscello, evidentemente della salinità, e non solo, insomma, il fatto di essere il recettore poi in cui i fiumi convergono, no? Ecco, essere uno straordinario bacino di cultura e di economia, perché all'inizio abbiamo accennato ai greci antichi, ma non solo. La Grecia sarebbe stata ben povera cosa, intendo povera a livello economico, non ci fosse stato lo straordinario supporto, che è molto più di un supporto, di commercio, navigazione e diciamo reciprocamente implicanti. Nella letteratura in genere, gli scrittori che hanno parlato del mare o ne hanno fatto esperienza semantica, e qui insomma inutile dire, no, di Omero, sempre che appunto sia esistito, comunque ecco, in tutti i poemi epici dell'antichità, appunto non solo occidentali, ma per esempio anche nel Kalevala finnico, no? C'è la tradizione, il posto del mare è assolutamente fondamentale, come il posto del mare è assolutamente assicurato, è un invito alla lettura nel poema di Gilgamesh babilonese, no? Che è un'opera fondamentale, perché poi dal poema di Gilgamesh deriva anche quello straordinario, scusate, lo spot credo sia si imponga e al tempo stesso sia scontato, che è ta Biblia, no? I libri, cioè la Bibbia, insomma, ecco. Interessante da un punto di vista laico, vedo qui un laico di ferro nella prima fila, quindi insomma anche da un punto di vista laico non è solo il Mar Rosso che si apre, ma diciamo troviamo sempre nell'antico e nel nuovo il radicamento al mare. Lo troviamo più... Se è chiuso. Sì. No, certo, se chiude si riapre, intendo, ma io sono un po' hegeliano, quindi penso al dopo, dato anche che sì, questo chiusura, apertura, giusto. E diciamo che gli scrittori, per esempio, dell'Ottocento, il ruolo che ebbe il mare negli scrittori dell'Ottocento è assolutamente fondamentale, intendo a livello internazionale. Pensiamo naturalmente a Melville, Moby Dick, ma non solo, dove Melville fece proprio l'esperienza, diciamo, da marinaio semplice, lui di origini aristocratiche, inizia addirittura a fare il mozzo sulle navi, no? L'esperienza di Joseph, ma insomma ha scritto poi un po' più casualmente che altro in inglese, Conrad, che notoriamente era polacco, ma nato ai confini tra Polonia e Ucraina. L'esperienza anche lì è semantica, perché lui amava il mare, anche se poi non scrisse solo il mare, no? L'agente segreto è un testo che ancora oggi ha valenze politiche, insomma, addirittura di filosofia della storia, molto, molto importante. Un altro nome evidentemente si impone, Edgar Allan Poe, no? Bostoniano, che in realtà col mare direttamente, vabbè, voi direte è un porto, però insomma non aveva un grande rapporto, credo sia talmente nota la vita di Poe, per cui non occorre ricordarla, intendo la vita, anche le origini, no? Questi attori girovaghi con la madre, che aveva grossissimi problemi proprio di realizzazione, per dirla insomma in modo un po' soft. In Poe, ecco, per esempio quello straordinario racconto sul Maelstrom, no, è assolutamente fondamentale, oppure anche tracce del mare proprio nella produzione lirica di Poe, che anche vi invito a leggere, no? Il Corvo è un poema, un poemetto se vogliono, che è assolutamente da tenere in ogni biblioteca. E poi il traduttore francese, che granché poi l'inglese non lo masticava di poco, era tale Charles Baudelaire, no? ecco, dove naturalmente anche, soprattutto Albatros, la presenza del mare era fondamentale. Anche qui l'esperienza diretta è ridotta. Una persona che invece nella letteratura italiana, nella poesia segnatamente italiana, ebbe molto a che fare col mare era Montale, per le origini liguri, per anche l'esperienza. Non è che poi Montale fosse sempre al mare, ne facesse un'esperienza a livello di consumo, assolutamente no, visto anche evidentemente, visti i suoi interessi che erano tutt'altro che di consumo turistico, ma poi anche qui Ungaretti, naturalmente la nascita Alessandria d'Egitto, poi le permanenze in varie zone che comunque col mare avevano attinenza, no? E quindi anche nella poesia Caproni, più recentemente, per citare un altro grande ligure, e in altri poeti il discorso verrebbe ad ampliarsi, a complicarsi, ecco. Non per parlare di un poeta non più di tanto marittimo, anche se evidentemente in parte lo è, Leopardi non è che poi avesse questo grande feeling con la realtà del mare, ma evidentemente il mare che cosa rappresenta, no? A livello simbolico, come ogni simbolo sul ballen, gettare insieme, è un simbolo, è sempre polisemico, lo è naturalmente il mare in modo particolare, però che cosa rappresenta? Ma credo ce lo insegni, scusate se lo do come non come un dogma o come una verità, ma come qualcosa di accertabile, evidentemente la realtà dell'inconscio, insomma, no? Carl Gustav Jung su questo ha detto parole, se non definitive, decisamente importanti. Ora, venendo più direttamente al volume, qui ci troviamo a parlare appunto di autori che sostanzialmente non hanno o hanno avuto esperienza forse meno diretta appunto del mare, appunto salvo alcuni, ma qui ci concentreremo sugli autori locali, e quindi il discorso evidentemente è ovvio: il mare non c'è nelle immediate vicinanze, no? Poi qualcuno sia riuscito a vivere anche al mare, e il mare è altra cosa, però complessivamente forse un po' meno. Ecco, la composizione di Fiammetta Bada è assolutamente esemplare, nel senso che un mare dentro si riferisce a quanto dicevo prima, cioè le realtà emozionali e le realtà comunque del sentimento, non solo, che abbiamo e che abbiamo talora in forma inconscia, no? Quindi qui poi parla di mondo dei sentimenti, quindi è assolutamente esemplificato con grande forza. C'è anche, però non conosco l'opera, mi scuserete, un film recente che si chiama Il mare dentro, però confesso lo ignoro, cioè non l'ho visto, forse riuscirò a vederlo, ma per ora no. Ecco, cercherei di enucleare due versi che sono assolutamente esemplari in questa composizione poetica. Ritorneranno relitti e speranza, ma senza gabbiani premonitori. Io naturalmente leggo non certo come loro, sono uno scarsissimo lettore, ma cercato di dare questo relitti e speranze, diciamo anche guardando alla, diciamo ai fonosimbolismi, no? In R soprattutto, poi ecco i relitti e le speranze che poi però avvengono appunto senza gabbiani premonitori, no? In una visione direi che è sognante, onirica e realistica direi al tempo stesso, no? Perché la sottrazione dei gabbiani premonitori appunto è nel senso del realismo chiaramente. E ho parlato di una composizione molto, molto pregnante ed efficace. Camillo Casera, Movimento, ecco, questo è, potremmo dire, una prosa poetica. Loro sanno che tra fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, non solo nella letteratura italiana, la prosa poetica, il genere della prosa poetica era un genere molto frequentato, no? Prima ho parlato di Baudelaire, no? Il poema prose, ma qui c'è uno straordinario proliferare di testi poetici, no? Di prosa poetica, no? Un autore che purtroppo si legge poco, e anche qui, scusate, uno spot si impone, anche perché diciamo, aveva grandi meriti culturali oltre che letterari, Benito Pérez Galdós, grande autore spagnolo, grandissimo autore spagnolo, tra seconda metà dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. In Italia, insomma, quantomeno un nome va fatto, faccio a maggior ragione un nome di un autore che purtroppo si legge ancora poco, anche se anni fa anche noi abbiamo spinto un recupero, e per un recupero, ma il recupero maggiore va al compianto maestro Luigi Baldacci, è evidentemente... naturalmente Federigo Tozzi, il grandissimo autore senese, no? Che vi invito a leggere. Silvano De Marchi, Kos, ecco, Kos, loro sanno, è l'isola, naturalmente è una delle isole cruciali, diciamo, della Grecia. Oggi io, qui qualcuno lo sa, critico moltissimo questi pseudo-elleni che si dicono tali, no? Hellas, Hellas è un mito, perché ormai sono tutti, non fraintendetemi, mezzi turchi o mezzi macedoni o albanesi, cosa che per loro è orrenda, perché il razzismo anche albanese è appunto... Il dodecanese. Appunto, no? E naturalmente in questo frangente ci torna in mente, a proposito di letteratura italiana, un autore mezzo veneziano, mezzo greco, ma ferocemente italiano, anche perché era l'epoca, che evidentemente era il Foscolo, come sanno, no? L'isola di Xantes, eccetera. No? Ora, nel poema, direi, del professor De Marchi, di Silvano, si parla dei ciottoli, che rimangono sulla linea, non diremo insomma del bagnasciuga, ma che fa orrore, ma diciamo la spiaggia, ecco, si diceva che quei ciottoli svegliassero le anime dei corpi annegati. Questo per esempio è un mito che troviamo in moltissime culture, no? Adesso non voglio tirare fuori di Moselle ogni piesso spinto, ma insomma Il fatto che le culture abbiano dei riferimenti, degli intrecci, non c'è bisogno forse neanche di ricorrere a Pangea, Atlantide, eccetera, per capirlo, no? A questa lupe son tornato per ricordare, prima che si accendano le fiaccole e la risacca di questo mare greco scandisca, le inquiete domande del cuore, no? Anche qui, in questo ultimo verso silente, quasi silenziato. Evidentemente abbiamo evocazioni che sono particolari e sono assolutamente interessanti. La poetessa trentina Cristina Ferrari, Rimini, anche qui abbiamo uno dei temi fondamentali di tutta questa raccolta poetica, cioè il ricordo. Ho parlato dell'inconscio, ma cos'è l'inconscio se non diciamo una sequenza diverse serie di sequenze di ricordi, no? Notoriamente nell'inconscio non c'è né tempo né spazio, e Einstein, perdonandomi, diciamo non c'è neanche lo spazio-tempo, insomma. E anche qui ci sono delle spie, no? Semantiche, si rifrangevano i raggi nell'acqua, forse è solo il ricordo, eccetera, no? Quindi nella mia composizione, insomma, nei miei testi idem, no? Tutto il riferimento anche un po' troppo forse legato all'esperienza non diretta, ma insomma di autori, di letture, no? C'è chi vive e c'è chi legge, no? E c'è chi fa entrambe le cose, insomma, io mi attengo più alla seconda dimensione, insomma, cerco di, anche per una scelta che purtroppo. Andrea Lach, Al mare, ecco, anche qui diciamo la scelta è abbastanza chiara, nel senso appunto del ricordo, dell'evocazione, del ritorno di determinate sensazioni e emozioni e sentimenti qui naturalmente, e abbiamo a che fare con un immaginario che è quello della schiuma, del gorgo, della luce, e anche il rapporto accennato prima in modo vergognosamente breve a Giacomo Leopardi, il tema romantico ma anche non romantico, perché Leopardi poi non è etichettabile come tale, di Eros kai Thanatos, insomma, amore e morte, no? Sapete che un poemetto leopardiano, così si chiama. Franco Latino qui presente, Il mare, qui, a Dio piacendo, o comunque al caso piacendo, diciamo anche naturalmente abbiamo occasione finalmente di vedere anche Franco Latino, poeta, oltre che appunto operatore culturale, lettura, eccetera. E anche qui c'è un'esperienza del tutto particolare che una persona, appunto un profugo, questo è anche il sottotitolo del poemetto, fa rispetto al mare, no? Domani si parte, anche se il cielo sarà scuro e non è chiaro, non è sicuro, no? Con questa che è una quasi una rimastra, no? Più che una rima, ma comunque va benissimo. Se il mare lo lascerà andare o lo terrà con sé, e sarà il posto dove nessuno gli dirà una preghiera. E poi questa immagine ancora straordinariamente evocativa della sirena, sappiamo, no, che dalla tradizione antichissima, diciamo sia greca sia però anche nordico-germanica, c'è tutta una un proliferare di sirene, con Heine persino, che in quel caso non riusciva a non riderci sopra, insomma, no? Heine che era diciamo un tipaccio, no? In questo senso. Franco Maria Maggi, l'altro editore e in questo caso autore anche dell'introduzione al volume, Mari Profondi, no? E qui naturalmente il mare, la sabbia, ma poi le sue schiume sono tristi storie di volti offesi e di puttane stremate, no? Quindi torna questa, che è poi una caratteristica del poeta, non di essere un modino, ricercare veramente quelli che dostoevskianamente possiamo chiamare gli umiliati e offesi. Poi, ecco, mi scuso per il fatto di sorvolare su autori non locali, Rosalia, Santoni, Toman, Tre pensieri, ecco, anche qui abbiamo a che fare con un immaginario che è molto particolare, ecco, in questo caso l'autrice è, scusate un attimo, sì, è maremmana di Scansano, in provincia di Grosseto, ma vive da moltissimi anni in Alto Adige, diciamo, e anche qui l'esperienza è poi abbastanza importante, risucchia, risacca i miei pensieri e li conduce in luoghi immaginari, mentre il vento spazza la rena e la ricompone in pentagrammi e note senza senso, no? Poi con l'evocazione appunto di elfi fatte. Ancora non so se ci sia poetessa, organizzatrice culturale a Trento, ma non solo, Lilia Slom Ferrari, dove ecco, in O mio mare c'è questa evocazione anche del mare, che appunto sarebbe una realtà teoricamente al di fuori, diciamo, dell'area del vissuto dell'autrice, in realtà è profondamente dentro, per il fatto che dicevo, no? Tutti noi, quando soprattutto, ecco, chi, come anche chi vi parla, non ha un'esperienza diciamo frequente del mare, tuttavia lo evoca, insomma, no? viene a evocarlo, no? È quasi un'attrazione fatale, oserei dire, insomma, per molti, direi soprattutto, ecco, per chi non ha fatto questa esperienza negli anni, insomma, nei primi anni formativi. Anche per chi l'ha fatta, ma in genere chi è nato e ha passato, diciamo, l'infanzia, la giovinezza al mare, forse è meno attratto. Io oserei dire, insomma, una statistica non sa la fare, probabilmente, non avrebbe neanche senso, ma se loro considerano, faccio un esempio paradossale, no? La città di Rimini, no? Credo che, insomma, tutti noi la conosciamo, no? Rimini è bella soprattutto nella parte storica, nella parte interna, no? La parte romana, ecco, no? E c'è poi questo, scusate, io sono un po' feroce in questo bubone che è il, diciamo, la realtà turistica, la realtà del divertimentificio, come viene chiamato qui, ecco, naturalmente qualche problema si ha, e lo hanno soprattutto i riminesi. Chi è nato e chi vive a Rimini, insomma, non è che ami moltissimo Rimini, magari è costretto a lavorarci, però se non è albergatore, appunto, appunto ho detto se non è costretto a lavorarci, ma chi per esempio adesso vorrei entrare nel dettaglio, insomma, chi gestisce negozi, anche d'arte, librerie, ecco, nel centro storico, non è che ami moltissimo, addirittura non amano essere catalogati, classificati come riminesi. Non a caso, qui entreremmo nel dettaglio, i romagnoli dell'interno, non è che, ecco, appunto, Rimini, no, è già altro, no? Altro da sé. Brescigallo. Sì, se voi chiedete, appunto, no, a Faenza o a Imola, che è già Romagna, e non è, anche se è attribuita a Bologna, ma non sono certo contenti, a Furlè o a Forlì, scusate, o a Cesena, non è che ecco, Brescello assolutamente, no? Diciamo, topica, no? Poi quelle sono realtà anche dell'Appennino, dell'Appennino tosco-romagnolo, è uscito anche un volumone 4-5 anni fa, no? Ecco. E Dietmar Stanchina, Mare Aperto, anche qui, e qui sono da segnalare dal punto di vista proprio linguistico alcuni agglomerati di parole. Mare, marea, scusate, ora argentea, blu onda, ecco questo è più noto, insomma, ecco, sono neologismi che però entrano prepotentemente anche nel linguaggio poetico. Posso circa 10 secondi? Sì. Io sono un non margaudente, tutt'altro. Anche tu, appunto, sì. Però a volte la notte mi viene in mente quel grido dei sopravvissuti greci che vedendo il mare lontano, Salata, Salata! Lì sì, appunto, per assolutamente, no? I greci veri, polemica, ma insomma sì. No, lo dico non a caso, perché anche riprendendo credo un po' il pensiero del dottor Mariani, la realtà greca è la più razzista d'Europa. C'è, lo trovate in internet, lo trovate in testi cartacei, non so, Lesbos è diventato non un campo profughi, un lager praticamente, quindi certe cose andrebbero dette anche in sede europea. Un mare dentro, di fiammetta vaga. Un mare dentro è il mondo dei sentimenti, che l'anima pensierosa osserva dalla scogliera della vita. Con placide onde o marosi violenti si manifesta questo mare, sempre diverso e comunque uguale a se stesso. Ogni nuova mareggiata porta i relitti delle esperienze passate ed ogni alta marea rinnova speranze. A occhi lucidi l'anima nell'osservare quel mare dentro, perché consapevole che ad ogni fase lunare ritorneranno relitti e speranze, ma senza gabbiani premonitori, così che mai potrà prevedere se la gioia supererà il dolore in quell'immenso mare dentro che è il mondo dei sentimenti. Camillo Casera, Movimento. Le nuvole camminano ed oscurano l'azzurro, nei colori il deserto, la luce, la vita. Incanto il gioco delle nuvole che nel loro giro lasciano spazio a rari raggi di sole. Un mare in movimento con onde lontane, con onde vicine, scatena rabbia e nello stesso tempo tranquillità. Un mare orizzontale, un uomo in piedi che ama osservare la lezione naturale, si confida con la riflessione. La mia vita è pure movimento, la difficoltà capirlo, vestirlo di umanità, vivere trasparenza nell'identità, valorizzare la lettura interiore, ciò che si trova in profondità, portarlo in superficie e dare luce alle scelte. Andrea Lacher, Al mare. Come la schiuma che in un borgo svanisce del mare e la luce cade, inghiottita nel solco dell'onda marina, così cadrà come onda l'amore. In breve reciso dalla falce che la morte cupa, brandisce come il villano che taglia il fiore del campo che crebbe ai margini, solitario. E nulla resta più sull'eguale superficie. Solo una rotta scogliera piange dal sale lavata nella furia inclemente. E sodono i canti che ammaiano delle sirene, gli echi e fondersi ai venti. Nel mesto naufragio dell'amore e della sorte, cadute foglie, verdi e nude. Franco Latino, il mare, profugo. Quando è giorno, guarda il mare, con le sue barche e le sue vele. E quando è notte, gli ritorna in sogno il mare, per lasciare una vita dimenticata sotto i tetti di un posto senza storia. Domani si parte, anche se il cielo sarà scuro, e non è chiaro, non è sicuro se il mare lo lascerà andare o lo terrà con sé, e sarà il posto dove nessuno gli dirà una preghiera. Domani si parte, chiamerà stonata una sirena. Sarà forse il tempo di un ultimo giorno o di asilo e dignità per una vita intera? Abbracciato al mare, deciso, insegue il suo sogno, oltre la nebbia, oltre la scogliera. Maria Rosa Gelli. E allora ascolto il mare. Ogni volta che si infrange un'onda, sento qualcosa adesso. Prima non stavo mai a sentire. Sono su di una scogliera. Se fossi una casa, è qui che vorrei essere costruita. Su di una roccia, di fronte al mare. A sentire. A sentire. Sussulti impercettibili spalancano i miei occhi su quelli della vita. Nei miei sogni, sei sempre presente e dolcissimo. Mi accogli fra le tue braccia e mi doni le ali per volare. Ma nella realtà mi guardo intorno e tu non sei qui con me. E allora ascolto il mare. Franco Maria Maggi, Mari profondi. Quando la sabbia cade dalla mano fredda, l'uomo non sa di che razza è il suo sudario. Il mare palpita allora di strane creature, avvinte a marinai su spiagge deserte. Lontani echi schiaffeggiati dal vento e dal pianto degli uomini perduti, trasportati dalle onde furiose, invocano le madri nella cavità del cuore. Quando il mare è insonne e scalpita come un toro sperduto nell'arena, sta per essere ucciso dal suo dio impietoso. Le sue schiume sono tristi storie di volti offesi e di puttane stremate. Mari profondi come gole profonde hanno tramonti di meravigliosa bellezza. Ricordano boschi straripanti di verde, uccelli verniciati di cobalti aggressivi, che nemmeno le procellarie osano sfidare. Oh mio mare, di Lilia Slomb Ferrari. Oh mio mare, mio oceano d'alghe trasparenti nel cristallo di una boccia che fiocca al minimo sussulto. Singulto ogni onda creata alla riva. Ti aspettano castelli di innocenza, franati alla rincorsa del domani, richiamo prepotente di vita sotto queste mani intrecciate. Teso il ventre, come tamburo che sa segnali antichi. Provo a bussare piano, con le nocche. Ti sento, mare, rifiorire di conchiglie sugli scogli. Teresa Tito Manlio, mare, selvaggio, errante visitatore della terra, per lambire le sue coste armoniose, ti levi alto e ti pieghi in acrobatiche contorsioni. A volte cavia e beffa di spietate tempeste, a volte distesa, immagine di sereno. Conca profonda dell'umana tristezza, a te chiedo perché è vietato scegliere quando due vite si ha il disagio di vivere. Di Rosalia Santoni Toman, Tre pensieri. Lascio alle conchiglie la voce della profondità, come al vento il canto dei boschi. Risucchia la risacca i miei pensieri e li conduce in luoghi immaginari, mentre il vento spazza l'arena e la ricompone in pentagrammi e note senza senso. Dentro ai boschi ridesta il sonno di elfi e fate. Ha perso lo splendore dorato dell'estate la spiaggia. Sulla battigia deserta, preda del maestrale, lascio impronte senza domani. Onda di gabbiani traccia in cielo labirinti di pensieri. Il sole dorme dietro nubi gravide di pioggia che vanno dal mare verso i colli a ridestare i ricordi. Quando, radente il volo dei gabbiani nella sera che rantoli di rosso accenna e il mare sugli scogli spumeggiando risucchia al fondo il cuore e lo frantuma in stelle di diamanti, la voglia d'immenso non ti attira a vendicar la morte? Silvano De Marchi, Cos. Sotto questa bianca rupe convenivano ragazzi a scagliare ciottoli nel mare per vederli propagarsi d'un circolo fino a scomparire, mentre il sole si tuffava rosso e nell'aria danzavano i gabbiani emettendo ralfi grigi di presagio. Si diceva che quei ciottoli svegliassero le anime dei corpi annegati. A questa rupe sono tornato per ricordare, prima che si accendano le fiaccole e la risacca di questo mare greco scandisca le inquiete domande del cuore. Di Eugen Galasso, Maelstrom, Vortice. Brezza di mare, breeze, wind. Tutto il cosmo in un bicchiere d'acqua? Credevi, ma non siamo rimasti a talete. Forse acqua si dipana veramente, altra dimensione. Non solo uguale Thalassa. Ratto la volge mare, settembre. Mai visto forse, sognato certo. Triste mare di ver, mer mer, pale mer. Storia di lacrime da solo. Kate Moon as Revenant. Phil Glass's Einstein on the beach. Il fait froid, mais frigus. Sempre, ancora, Monsieur Winter. Altro che temperatura risalente, pianeta, riscaldamento generale, peligro. Ma allora ben rimane Droit de Rêver, playa sassolate, se possibile di gente non ripiene, mari azzurri, grandi palloni danati gonfiati. Ah, la mer. Risentire le note di non so quale canzon di mare. Ma presto provvedi a sostituire. Ripensi Melville, Poe nel Maelstrom, grande polacco, un po' ucraino male English hablante. 15 uomini, ut inquit Stevenson. Giacomo Manzoni di Chiosca, Andare al largo. Il mare è calmo, Leila, la risacca fruscia leggera sui sassi della spiaggia. Con te vorrei varare la mia barchetta a remi e andare al largo. Andare al largo, lontano dalla gente che riempie di rumore questa notte, lontano dalla luce artificiale che soffoca la luna e spegne in cielo le stelle più lucenti. Andare al largo oltre l'orizzonte, ora che il cielo è nero e nera è l'onda che leggera si frange in bianche schiume. Essere luce insieme a te sul mare. Giorgina Busca Gernetti, Le voci del silenzio. Riluce il tremolar della marina, dinanzi a me, intorno a me, nel sole. Lontano dalla riva, nell'azzurro e nell'indaco puro, mi abbandono. Silenzio intorno, pace. Ma il silenzio mi parla, mi sussurra, mi chiama con la voce della brezza che accarezza il mio volto e sfiora e increspa nell'acqua la calma. Mi parla con gli spruzzi scintillanti d'argenteo pesce che sull'onda salta e sonoro si tuffa nell'immenso suo palpitante regno. I gridi dei gabbiani sono un'eco lontana e vaga che non turba il fascino di questa quiete assorta, quasi voce che fioca si dissolve. Si levano folate di scirocco, improvvise, dolcissime, scherzevoli, arpeggiare melodioso sul mare, nell'aria sinfonia. Fende una prora l'acqua che si imbianca di spuma, freme la candida vela, virando rapida al soffio benevolo, suono di flauto disperso nel vento. Voci difformi in arcana armonia, che solo nel mio animo si svela e risveglia sopite sensazioni, corrispondenze segrete tra i suoni. Silenzio intorno, pace. Andrea Carrano, Pescatori di Conca. Erano vecchi i pescatori di Conca, negli occhi la fede di vivere, un segno di pane fiorito. Sognavano spiagge con reti distese, vegliavano muti la notte, su gozzi ancorati davanti alle grotte dei sarmi. All'alba le spose spiavano d'este i ritorni. Baciati dal sole, venivano a spiaggia nel giro di remi incrociati. Sembravano vecchi immortali. Mare aperto di Dietmar Stankina. Chiudesi in noi, marina aperta, blu nel sogno, l'un amor su specchi d'acqua. Corre negli occhi oro di scintille, marea oro argentea, su incudini di mani, meravigliose mani, giardini ellenici. Cadendo nel tu, sorreggimi, cado tu in blu onda. Elio Felice Schiavone, Tsunami. Il mare, mare gonfio di marosi bianchi, bianchi di spuma come veglia al vento, mare di peripezie indefesse, animose di bontà, di lietezze, pieno nell'aria il biblico vagito della nascita, quando l'onda accarezza sinuosi lembi verdi, nere alture a strapiombo dell'amata siamese. Mare, palestra azzurra di remoti eventi, giocoliere sottile, appena dondola come ciondoli, gusci folli di uomini. Si trastulla così, in altalena dell'onda tra i ciottoli, lisci e lisci di sabbia. Poi, chissà, capitombola, serge, sprofonda, s'allontana rauco come avesse paura, per ritornare furiosa, arrabbiato per onde nere in subbuglio di morte, a guisa di un atleta inusitato, gigante che sovrasta, si innalza, salta senz'asta, avvolge, urla, schianta. Di Franca Valenti, Vatamu, Kenya. Nella pace celeste di ficus, palme, oleandri, tra la brezza e i fiori rossi, ascolto poesie del silenzio. Odo camminare la formichina, il respiro della polvere, l'odore dell'acqua. Bisbiglian le farfalle gialle oggi a Vatamu. Gianni Resigno, come la terra e il mare. Mi stringerai la mano sotto un pioppo che fa neve. Ho accanto un vecchio tronco d'albicocco che fa colla. Sarai tu a parlare per primo. Mi domanderai per quanto tempo siamo stati lontani. Non ti risponderò. Avrò il mare negli occhi, rubato dalle mie sieste davanti all'infinito. Non ti piaceva. Preferivi calpestare la terra coi tuoi dolori, padre, oppure con gli zoccoli di un cavallo di Persano. Vi leggerai che il mare è come la terra, apre il cuore dell'uomo, ognuno vi passa e canta. Appena uno cade, un altro inizia a passare e a cantare. Grazie. Allora, naturalmente le poesie appunto di altri autori sono state proposte di autori anche extra, diciamo, Trentino Alto Adige, e sono molti. E vorrei chiudere un attimo in modo molto breve, ribadendo appunto che in tutti, con scelte evidentemente stilistiche, stilematiche diverse, però diciamo il tema del mare è assolutamente presente, oserei dire veramente un aggettante, non qualcosa che aggetta sull'esperienza umana e sull'esperienza poetica. Penso, per esempio, per chiudere con un'autrice bolzanina che è stata la penultima, mi pare, delle proposte, Franca Valenti, appunto, Vatamu, dove evidentemente anche il ricordo e l'evocazione si fondono, e naturalmente altro che rielaboriamo quando pensiamo a qualcosa che appartiene al nostro vissuto, al nostro passato, ammesso che di passato poi si possa parlare, no? Essendo che presentifichiamo poi quanto rielaboriamo. Un'ultima nota, ecco, questa poi avranno occasione appunto di vedere i libri, ma questa immagine che trovano è dell'artista presente in sala, no? O al momento non c'è, volevo però segnalare che è in qualche modo emblematica, no? Luana Angermeyer, che era in sala, sì, momentaneamente è uscita, e fa da collante, in qualche modo appunto da figura emblematica, per dire che e sarebbe inutile dire che evidentemente il mare è nella poesia, è nella letteratura, è nella filosofia. Qualche anno fa mi è capitato di leggere, non lo conoscevo, quel trattato sul diritto internazionale, diritto marinaio, o come diavolo, marittimo, di Hugo Grotius, no? Del grande pensatore contrattualista, no? Olandese 600. Ecco, per dire, e poi naturalmente in musica abbiamo dal romanticismo quantomeno a Debussy abbiamo una presenza straordinaria della musica, del tema appunto del mare, del sema anche proprio del nucleo di significato che è del mare, nelle arti visive, idem, no? Pensiamo i paesaggi più interessanti, sono naturalmente attratto sia dalla dimensione classica sia da quella romantica, ma diciamo, nella classicità greca questo è esemplare, ma per esempio nel romanticismo di Turner non manca mai il mare, anzi è fondamentale assolutamente, no? Non volevo mostrare l'artista, non c'è, non c'è. Sì. È rientrata? Allora ringraziamo ancora i relatori, gli attori, grazie. Diamo ancora un buon proseguimento di serata e così ci vediamo giovedì. Un applauso ancora agli attori. Molto bravo. È uscita, non è tornata. Molto interessante. Mer, Palemer. Non so se questo è stato presentato 3 giorni fa, la mia nuova traduzione. Posso verificare? Perché li abbiamo ordinati parecchi. Ah, ma lo manderò alla provincia. Un po' lungo, no, va bene, siamo in tempi di 7:01 più bene. Pensato di no, no, non è scusate, sei stato bello, siamo stati dentro nel tempo, maturato, comunque ti ho lasciato più tempo, quella sì, la fa, sì, 26, dove? Qui, ok. Che giornale sei? Lunedì? Vediamo per novembre, non so, le date. Arrivederci, grazie. Non c'è in Cile. Non c'è in Cile, no. Se va tutto bene, sono in Cile. Anche in Cile. E allora, andarti. Se va tutto bene, che riesco a partire, fino all'ultimo non so mai. Sempre timore che succeda qualcosa. Io torno il 28. Bene, allora è così. 28 comunque. Dovrebbe essere. 28 di storia, no? 28 di storia. Ho citato sono... Complimenti, sì. Arrivate, l'importante è che arrivi. Mi sovveniva, tu parlavi di un Massimo Timore, sì. A suo tempo prodotto con Massimo Maggio, mi sovviene. Massimo Maurizio, sì. Massimo, eccetera. Sì. Appunto, no, ma, appunto, no, scusa, io, cioè, tu sai che Calambur, Maso. Semmai Maso, io poi pensavo a Maso che è oltre che fondatore del masochismo, è secondo Craftevi che poi però è il sacro Maso, appunto sacro appunto sì, Moretti, no? Moretti, l'evocazione morettiana, no, il canto è cibombo, non so se è cibombo, non so se è perché il resto dei vecchi è scontato, no? Sì, grazie, sai, arrivederci. Adesso viene da quello che non pretendo, ciao, ciao, ok.